Benvenuti su Rigonia. Stan Lee. Worship. Jim Hudson. Begin. Greetings, heroes. Stan Lee's here to battle. It's the mind behind the Hulk against the geek beneath the flag. I'm just your friendly neighborhood writer man with a secret identity of a super MC whose raps are as dark as my shade. And you're squealing like. You're in trouble now, Jimmy. You dirty old hippie. Your beard needs a little bit of snake dance, Skippy. Heck, that face on your neck ain't sexy. You're one pot sweetums, the other pot skexy. Step up to Lee and you get your butt kicked. Your Muppet Snuffleupagus stuff is butt kiss. A broke for Igno and the comics code. So keep your frog and pig show moving right along down the road. I'm glad you got that out. That anger can clutter your mind. But you're a creative man, Stanley. Yeah. So let's just leave it behind. Because I can sense your tension. Once the verbal fencing starts commencing, there is no defense against the dance Jim Henson is dispensing. And I'm clenching all your strings like you're a puppet in suspension. Call your superhero friends in. Yeah, because you're going to need a vengeance. Let me mention, I'm impressed by all the vision that it took for you to sign your name on all of Jack Kirby's comic books. Nice try, Frogman, but Jack was a friend of mine. Swift, that was a low blow. He did his own thing, and now you've made it clobbering time. Blanco, you taught children to count and spell. Then you taught your own kids how to drop your wife harder than you flopped on SNL. I'm telling you, Henson, you wouldn't like me when I'm angry. I'm a marvel of a party pooper. I'll snap your turtleneck like a doozer stick and put you out to pasture like Mr. Hooper. I'm sorry, Jim. Sometimes I can't control my rage. Honestly, there's a lot of things that you can't control at my age. But the truth is, I miss you. You were gone too soon. You were like watching a beautiful sunset at noon. Oh, Stan, don't be sad. We all have a time to go. Yeah. Most of the internet thought that you died 12 years ago. But the four will always be fantastic. The hope will always be incredible. The words you wove within the hearts of heroes are indelible. There is no beef between us. We're two minds of the same kind. And there is no man who could ever muck with what we've left behind. M-I-C. I rock the mic properly. A-Y. Turn it, drop it, I've got the key. I'm the juggernaut of stacking knots unstoppably. The Disneyland lord of your intellectual property. So get back to work. That's my time you're wasting. I didn't buy you for billions so you could play around debating. Oh. You belong to Disney, which means you stay busy cranking out magic and assembly line whimsy. Artists begging me to stop. I won't let them. Labor conditions in my shop. I don't sweat them. I'm powerful enough to make a mouse gigantic. With only three circles, I dominate the planet. Oh. Clearly, there's nobody near me. I'm owning this battle. In fact, I own this whole series. So hop on my steamboat, boys. But don't rock it. I'll put a smile on your face. And green in your pocket. You'll be safe and insured when you're under my employ. Now look at it. Gaze upon my empire of joy. Il rapporto con le persone che io ho reputato e reputo come miei maestri è sempre stato innanzitutto un rapporto di fiducia. Cioè non mi accontentavo che queste persone mi guidassero o che io le ammirassi, ma ho sempre cercato di fare in modo che loro potessero avere stima nei miei confronti. Tant'è che infatti, oltre a giudicare il loro giudizio, il loro pensiero in un certo senso superiore a quello di altri, quindi a tenerlo in estrema considerazione, facevo sempre in modo di poter risultare, se vogliamo dire, degno ai loro occhi. E poi un'altra cosa rispetto a loro non era tanto quello che loro facevano, ma era il loro modo di affrontare sia la vita che il lavoro, anche perché appunto considero maestri non soltanto le persone che mi hanno insegnato qualcosa a livello professionale, ma anche a livello di vita. E quindi questa ammirazione per come facessero le cose, più per cosa facessero. Rigonia. Buongiorno amici di Radio Antidoto, oddio, spero che la voce doppiata la senta solo io. Questa è Rigonia, 19 aprile 2025, sabato mattina, ore 10.08. Sto lavorando, oddio, già siamo partiti male. Da parecchio tempo immagino una puntata che parli di eventi che forse sono stati già menzionati in podcast precedenti, e forse anche questa puntata è stata già anticipata nelle precedenti puntate, ormai un po' lontane nel passato. La verità è che sono successe parecchie cose nella mia vita, per cui molti degli argomenti che avevo in mente a gennaio, alla fine di gennaio, di cui volevo occuparmi, come dire, hanno un po' dovuto lasciare lo spazio a eventi della vita che sono capitati a me e alla mia famiglia, e per questo motivo in qualche maniera, accantonando questi argomenti, a un certo punto questi argomenti a loro modo sono invecchiati, e alcuni più che invecchiare sono finiti sotto traccia, e questo argomento, assieme ad altri, perché sento che c'è un sacco di lavorio nascosto nelle pieghe della vita, non solo per me, tra l'altro, e dove ci sono degli argomenti che sono arrivati a intaccare le fondamenta. E intaccare le fondamenta non in senso negativo, non per forza, però in qualche maniera a unirsi a una base di concetti, pensieri, esperienze che in qualche modo mi stanno trasformando. E questa trasformazione sta diventando un processo geologico, è lunghissima. Mi sono accorto che stava accadendo circa un anno fa, e ogni volta che dico sono cambiato, mi sono trasformato, c'è qualcosa che succede, o sì, sono eventi per lo più, a volte sono anche pensieri che in qualche modo mi fanno capire che in realtà la trasformazione è ancora in corso. E un saluto a Giuna, un saluto ad Asco, ciao Radio Antidoto, un saluto alle persone che non sono sulla chat di Radio Antidoto ma che si stanno connettendo e stanno ascoltando. Io mi dimentico ormai perché il Covid è finito e sembra sempre che io stia parlando da solo, però ringrazio tutte le persone che sono in ascolto. Giuna per esempio mi scrive: si stanno spostando le placche tettoniche interiori, ed è così. Allora, sto facendo una lunga introduzione, però in realtà il discorso è molto semplice. Il 31 dicembre muore Paolo Benvenu, due settimane dopo muore David Lynch. Poi muoiono altre persone della mia vita. È mancato Emanuele Miceli, che non è una celebrità, ma è il produttore dei miei dischi ed era mio coetaneo. Ed è mancato per una malattia che lo stava logorando da anni e anni e anni. E poi sono mancate altre persone che appartengono alla mia vita privata e che non voglio citare qui. E quando è morto Paolo Benvenu, e io l'ho già detto, ho avuto una scintilla nella testa. Ho pensato: è mancato il mio punto di riferimento nella musica, il cantautore che sarei voluto diventare da grande. E adesso che cazzo faccio? Me ne cerco un altro? No, non ho voglia di cercarmi un altro come Paolo, perché Paolo era Paolo. E tra l'altro, dopo che è mancato, tutti i fan che non conoscevamo, che non ci conoscevamo gli uni con gli altri, Paolo Benvenu, siamo tutti emersi. E quindi cosa è successo? Che quella persona, che per me era un maestro, si è scoperto essere un maestro per tante altre persone. E David Lynch, a sua volta, era un maestro, non direttamente per me, ma per tanti dei miei amici. E Emanuele Miceli, il mio produttore, è stato un maestro per me. Io ho imparato a conoscere la musica a un livello tecnico, professionale e profondo per essere stato in studio con lui, aver registrato due EP e due dischi. Ha affinato il mio orecchio, ha affinato la mia sensibilità, ha affinato il mio songwriting, mi ha fatto scoprire nuove dimensioni della mia voce, per cui lui è quello che avrebbe voluto che io parlassi e cantassi sempre così, per esempio. E che cosa succede? Scopri che c'è un vuoto, un vuoto di ruolo. Ti rendi conto che non ci sono più maestri, e che cosa fai? Il mio primo istinto, perché è un periodo così strano in cui sono così connesso alle cose della vita e ci rifletto così tanto, molto più, e tra l'altro appunto tenuto conto che ci rifletto già molto, vuol dire che è davvero molto. La mia conclusione è stata: i maestri stanno morendo ed è tempo che i maestri li diventiamo noi. Ciao Francesco, allora sono in treno e sto pensando adesso alla tua proposta di elaborare un pochettino sul concetto di maestro. Ed è un buon posto per parlare di maestro il treno, perché secondo me, non lo so, per me almeno mi riporta a uno dei grandi maestri, Federico Fellini, che diceva che la vita alle volte è come un viaggio in treno, tu sali e poi è lui che porta te e non te che porti lui o lei. E quindi questo treno che va da Alassio fino a Genova mi ispira a cercare di rispondere alla tua domanda, che lì per lì mi ha messo abbastanza in crisi, perché non è una di quelle facili a cui rispondere. Mi ha messo in crisi perché mi sono accorto che la prima cosa a cui penso quando penso ai maestri è come esserlo. E la dice lunga sia sulla mia età che sulla sicurezza che ho in me stesso, nel senso che mi metto nel momento in cui per evolvere nel proprio percorso ti devi mettere in gioco cercando di vedere se hai veramente capito, se sai insegnare a qualcuno, e mi rispondo sempre di no, quindi rimango sempre in questo limbo, almeno io, tra il voler apprendere sempre e il non voler mettersi in gioco controllando se si è appreso, vedendo se si è in grado di trasmettere qualche cosa di ciò che si è appreso, non dico di verità assolute che non credo di possedere, ma semplicemente di esperienza di vita, modo di aver capito il mondo, queste cose così. Quindi ecco, è un po' difficile fare i conti con questa presunzione intellettuale che ho, indubbiamente. Se scomodiamo l'etimologia della parola maestro, connesso a magis, quindi che viene prima di altri, indicante chi è superiore ad altri, chi esercita appunto una magistratura imponente, maestro è quanto di più lontano dalla mia concezione di uomo o donna posti a guida e difesa di un sentiero. Dal mio punto di vista, strettamente legata ad una formazione libertaria, il maestro o maestra rappresenta di più un custode o un sacerdote, cioè sacer, sacro, appunto, capace di custodire la bellezza non effimera e la ricerca individuale del neofita, stimolandolo anche in maniera non convenzionale, lo shock come comprensione di estasi di fronte a una parte di verità indotta dal custode. Il maestro deve essere umile, indicare una strada e poi farsi invisibile per far posto al discente. Maria Montessori, che ho scoperto da adulto per motivi lavorativi e grazie all'incontro scontro con Fulvia Rizzoni come maestra di ascolto, silenzi e pratiche di ordine ed equilibri ambientali e mentali, scrive nelle pagine del suo Il segreto dell'infanzia: sbaglierebbe dunque il maestro che pensasse di potersi preparare alla sua missione soltanto per mezzo di nozioni e studio. Prima di tutto si richiedono da lui precise disposizioni di ordine morale. Insistiamo sull'affermazione che il maestro deve prepararsi interiormente studiando se stesso con metodica costanza per giungere a sopprimere i difetti che ostacolano la relazione con il bambino, il peccato mortale che ci impedisce di comprendere le vere esigenze dell'infante è l'ira. Perciò bisogna frenarla, eliminarla, e chi soffre l'umiliazione di tenerla nascosta finisce col vergognarsi di essa. Il buon maestro, la buona maestra, è chiamata a compiere un atto di umiltà, necessario a cancellare un pregiudizio annidato nei nostri cuori. Secondo Montessori, il buon maestro deve prima liberarsi per permettere la liberazione. In altre pagine aggiunge come deve diventare invisibile, segno che ogni maestro alla fine deve sparire per far posto all'esperienza individuale del bambino. Ogni neofita diventa maestro di se stesso. È tempo che San Giovanni scompaia per far posto al Nazareno. Rigo-ni-a. Queste non sono parole mie, ma sono un messaggio che ho ricevuto da un caro amico con cui ho parlato sull'argomento del maestro. Sono le 10:20, questa è Rigonia, e Asco, super carino, lo saluto, lo abbraccio, me lo coccolo, gli voglio un sacco bene. Un saluto a Giuna e alla sua bellissima piantina. E mi è successo un paio di anni fa che qualcuno iniziasse a considerarmi il suo maestro, e questa cosa qui mi ha messo in difficoltà, perché io non volevo essere il suo maestro e non mi è stato chiesto, cioè io lo sono diventato e basta. Cioè, a un certo punto sono stato assegnato, a tal punto che poi questo ruolo del maestro ha completamente sovrapposto tutti gli altri ruoli che avrei potuto assumere. Questo è il presupposto, nel senso, cioè, so di essere un maestro in qualche modo, in qualche cosa, ma non voglio essere un insegnante, non mi è mai interessato, tant'è che non ho neanche studiato per diventare professore, sebbene molti pensino che sarei stato un grande professore, ma io ho odiato la scuola con tutto il cuore. Ciao Bonelli, buongiorno. E quindi io l'insegnante non lo voglio fare, ma so di essere un maestro, l'ho scoperto quando è morto Paolo Benvenu. È per questa ragione che ho parlato con le persone di questo argomento, perché volevo capire, ok, ma in che cosa saresti maestro esattamente? E ho parlato con delle persone che sono, da un lato, per me maestre, persone con cui ho condiviso dei maestri, persone che sono di professione maestri, e in generale tutte persone con cui ho quel grado di confidenza da potergli proporre un argomento così complesso e ricevere una risposta non banale e non qualunquistica, perché in questo periodo della vita ho dovuto fare esperienza anche di questa cosa qui. Quindi io non so se esaurirò l'argomento in questo episodio, non credo sia possibile, anche perché un sacco di materiale, sono già le 10:22. Non pensavo fosse così tanto questo materiale, sinceramente, però appunto, se c'è una cosa che mi piace di questo argomento del maestro, cioè se c'è una cosa che mi affascina molto rispetto alla mia esperienza recente, anche di quello di cui ho parlato in queste nelle ultime puntate, degli ultimi 6 mesi, dell'ultimo anno, è questa inclinazione del maestro allo spazio. Cioè il maestro in realtà è uno scopritore di spazi. Cioè lui, un maestro, è tale perché deve sempre compiere un passo avanti verso se stesso, per cominciare, ma anche verso i suoi allievi. Cioè lui deve essere la prima persona che sia interessata veramente alla crescita, che sia crescita personale, ma sia anche crescita collettiva, ma che sia anche crescita fine a se stessa. Cioè il maestro deve essere un pioniere, deve essere curioso, e lo deve fare perché non potrebbe vivere altrimenti, mettiamola così. E questi sono concetti che mi affascinano molto. Ed è per questa ragione che il maestro deve essere anche la prima persona in grado di sbagliare, e anche la prima persona in grado di superare, la vergogna, l'imbarazzo per i propri errori. Due piedi sopra l'erba, la coperta sulle spalle, mentre guardi una stella hai paura di pensare. Una voce da lontano che spezza la magia, è uno scherzo, ridi e fuggi via. Due passi passi nella stanza e lo sguardo sul soffitto, mentre guardi un insetto, hai paura di dormire. Uno squillo da lontano interrompe la magia. Rispondi, spegni e metti via. Qualcosa sta accadendo, qualcosa sta accadendo, qualcosa sta accadendo, qualcosa sta accadendo. Sulla strada e al collo una collana, mentre guardi i tuoi pensieri, hai paura di guidare. Un tuono da lontano e un diluvio di magia, un brivido freddo e corri via. Ma io saprei viaggiare alla tua velocità, ho vinto delle gare, so come si fa. Ora parlo basso, rallenta ancora un po'. Di cosa hai paura? Dimmelo anche tu. Qualcosa sta accadendo e non so cos'è. Non pensare, pensa un po' con me. Qualcosa sta accadendo, qualcosa sta accadendo. Qualcosa sta accadendo, qualcosa sta accadendo. Dai, c'è un bel sole, il mare è completamente piatto, sto passando davanti all'isoletta, quindi questo mi mette di buon umore e quindi magari passo a dirti qualcosa dei vari maestri miei, almeno dei miei maestri, che forse può essere interessante per te, non lo so. Maestri all'insegnamento, all'insegnare, a vedere il mondo, ne ho avuti parecchi. Mi ricordo un professore di filosofia, si chiama Baldi, pazzo completo, ma che riuscì a tenerci a noi che eravamo delle bestie in classe, me incluso, e che mi ha trasmesso la passione della filosofia, diciamo, e anche la conoscenza di molta roba ben spiegata da lui, che io ancora spiego con le sue parole praticamente, tipo Kant, tipo forse anche presocratici, io... mediati da lui, Nietzsche, la passione per Nietzsche, per la triade negativa, Nietzsche, Schopenhauer e Freud, in ordine sparso ovviamente. Rigonia. Credo ci sia un'incredibile connessione tra il pensiero di Maria e alcune pratiche di varie scuole mistiche orientali. In buona parte della sua opera si sofferma spesso sull'importanza della preparazione spirituale dell'educatore, condizione indispensabile a compiere quella che lei stessa chiama iniziazione del maestro. Non a caso Montessori si trasferisce per alcuni anni in India dal 1939 al 1946 e lì, assieme al figlio Mario, getta le basi di un nuovo insegnamento, sancendo la nascita dell'educazione cosmica, scienze, geografia e storia insieme, a difesa del piacere della scoperta da parte del bambino attraverso un racconto favola che diventa pratica, interesse per la conoscenza e l'autoeducazione. In qualche maniera la spiritualità e la ricerca del sacro tornano nelle strade percorse da molti uomini e donne che si sono donate all'educazione. Franco Battiato, fervente e instancabile studioso del sacro, nella canzone Prospettiva Nevsky scrive: «Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire». E ogni buon maestro sa che buio e luce rincorrono da sempre, perché per esistere hanno bisogno l'una dell'altra. La luce della rinascita segue l'oscurità della fine, ma senza fine non c'è inizio. Direi che il maestro deve saper tirare fuori dal neofita la luce che alberga, a volte inconsapevolmente, nel suo io più interiore. Per farlo spesso deve partire dalle sue debolezze e insicurezze, la fine del vecchio percorso, stando attento a non mortificare mai la sua esperienza. Un buon maestro non deride, non avvilisce, non scoraggia, illumina il sentiero e capisce quando è giunto il momento di eclissarsi per far posto al nuovo. C'è un posto vuoto, tavola. È un gran silenzio, un certo imbarazzo tra i commensali e turbamento, e così se ne va l'ultimo uomo buono del mondo. Teso a evitare l'argomento, nessuno sa cos'è successo e ciascuno è compromesso, si attende la conclusione dello strazio del momento, ed è così che se ne va l'ultimo uomo buono del mondo. Sempre un lato comico, un sorriso che distrugge, è sempre molto comodo abitare vite piccole, la fuga e i suoi vantaggi, ma toglie vita alla bellezza, ed è così che se ne va. Casa propria a rimuginare sugli eventi, perché domani il mondo sarà un luogo assai diverso. C'è un posto vuoto a tavola e nessuno può riempirlo, ed è così che se ne va. E il ritornello suonerà. Suonerà, ed è così che se ne va, ed è così che se ne va l'ultimo uomo buono del mondo. We'll be right back. Ma questo penso sia molto poco interessante per i tuoi amici, eventuali ascoltatori. Quindi passo a cose un po' più recenti. Io sono sempre stato un autodidatta, mi sono sempre considerato un autodidatta, quindi per me è difficile rapportarmi con i maestri, perché i maestri sono sempre inconsci, inconsapevoli di essere tali, perché sono scritti da qualche parte, sono incontri casuali in biblioteca, sono, cioè, libri che incontri casualmente in biblioteca, insomma sono difficili da trattare in quanto rapporto tra umani, è più un rapporto tra classici, tu che corri incontro ai classici cercando di rubacchiare qua e là cose che puoi far tue. Rigo-ni-a. Arigonia 10:37, è importante accendere il microfono prima di parlare. E Giuna scrive: che cosa insegnano a Giuna i suoi 9 cani, i 9 cani che ha in Sicilia, uno più tenero dell'altro? L'amore. E ci dice: la cosa dell'insegnante è la trasmissione. Non credo sia il sapere o la quantità di nozioni. Lo sento quando insegno, tra virgolette, o meglio, tra virgolette, condivido un po' di danza. E la cosa che mi piace, mi tocca, è la trasmissione e vedere quello che dici che entra in altri corpi e quindi in altre teste. E magari qualche informazione resterà a lungo con quelle persone e loro ne faranno quello che vogliono. E è molto... c'è molta questa dimensione dell'energia, lo scambio di energia, lo scambio di esperienza, lo scambio di esistenza. Penso al pomeriggio di psicodramma che ho fatto con Lucia la scorsa settimana e penso che sia una cosa che io, quando ho saputo che veniva organizzato, mi sono iscritto subito, senza neanche chiedermi il perché, perché la persona, cioè chiedermi il perché, lo sapevo perché, la persona che conduceva questo incontro di 3 ore di psicodramma è una persona con cui io facevo psicodramma e mi entusiasmava l'idea di poter fare psicodramma di nuovo con lei. E lei è stata veramente maestra, ma in realtà il suo ruolo non è mai dovuto essere quello della maestra. Il suo ruolo è sempre dovuto essere quello, se vuoi, della guaritrice, o in quel contesto ancora meglio, dell'assistente del guaritore. Però il modo in cui lei mi ha trasmesso le sue esperienze è qualcosa che mi ha segnato e che mi ha nutrito per tanto tempo e volevo riavere quel nutrimento. Volevo riassaporare lo psicodramma vissuto con lei, così come lo si vive con lei. E in questo ci agganciamo agli spazi, alla trasmissione, alle energie, perché il punto è, bisogna sempre tenere bene a mente qual è l'obiettivo di tutto questo, cioè quel perché mi esco allo scoperto facendo una puntata di questo tipo, cioè come si dice, l'obiettivo, la domanda, la richiesta, l'urgenza è, bisogna diventare maestri. Alcuni di noi hanno superato i 40 anni, le persone attorno a me soprattutto, visto che sono miei coetanei, i maestri sono morti, molti, alcuni, troppi, e come dire, in qualche maniera la vita ci sta lasciando soli, perché non abbiamo più quei punti di riferimento, abbiamo un sacco di spazio davanti a noi e in qualche maniera bisogna diventare maestri. Allora, maestro sicuramente è la persona che trasmette. Ma se ci pensi, e questa è una cosa di cui ho parlato con un mio amico che fa il professore di professione, il punto è, parli di maestro sempre in relazione a qualcun altro. Ma il maestro, quando è solo, che cosa fa? Nel senso, io non credo che David Lynch o Paolo Benvenu volessero essere maestri. E molti di noi, molti dei miei maestri anche, e lo stesso Fred, che a modo suo è un mio maestro, anzi, lo è stato senza dubbio. Mi ha insegnato qualcosa importantissimo sulla radio, sulla vita e su come si sta in mezzo agli altri e come si sta con se stessi anche. Però io non credo che a Bonelli gliene fregasse niente di insegnarmelo. Semplicemente lui stava facendo esperimenti, o comunque stava esperendo su di sé questa cosa. Quindi essere maestri è qualcosa che ha a che fare anche con l'esperienza individuale, anche con il non avere allievi. Non c'è bisogno di avere allievi per essere maestri. Sono gli allievi che ti vengono a cercare perché ti riconoscono in quanto maestro. E qual è, secondo me, o l'idea che ho, il modo per rispondere alla richiesta "bisogna diventare maestri" è non avere paura dello spazio. Si è aperto uno spazio davanti a te perché sei diventato un adulto e sono successe delle cose, e perché ormai nella tua valigia hai raccolto tutte le informazioni di cui avevi bisogno per fare questo salto, e adesso devi saltare, cioè devi fare quel passo davanti a te, quel primo passo, dove tu consapevolmente abiti lo spazio in un modo diverso, che è il tuo, ed è proprio perché è il tuo, ed è sinceramente tuo, è veramente tuo, e ti interessa che sia veramente tuo, allora questo in qualche maniera, quando poi entrerai in relazione con qualcuno, ti farà diventare maestro. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he won't need a help. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. He gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. Ovviamente non so se questo che avevi in mente quando hai chiesto qualche cosa sui maestri, da un punto di vista più della vita, non dico spirituale, ma maestri di vita, cioè di come vivere, temo di non avere proprio mai avuto un incontro che mi abbia dato qualcosa di positivo. Gli incontri, quelli che mi hanno formato, sono tutti incontri a togliere, con delle situazioni, delle cose che mi hanno fatto capire cosa non volevo, non cosa volevo, e che quindi forse hanno influito molto su questa idea dell'apprendimento contro, del polemos, cioè dell'essere segnati nell'imparare non soltanto dalle cose positive, dalle nozioni, ma anche dagli scontri. Si impara molto di più da uno scontro che non da una lezione. E questo però si porta appresso moltissime difficoltà, non è una nozione, diciamo, facile con cui fare i conti, perché ti porta un sacco di rabbia e quindi ad affrontare il mondo di ciò che può essere, ciò che può essere lì fuori, fuori da te, con un certo livello di frizione, sempre dato per scontato, sempre un po' senza fidarti bene dell'incontro con qualcuno che possa offrirti delle scorciatoie, oppure, vedi, uso il termine scorciatoia che è già negativo, delle nozioni di utilità, ecco, che possano essere utili per fare un salto in avanti. In un modo o nell'altro non ti fini mai troppo della fortuna di incontrare qualcuno. Io però, quando ci penso bene, mi rendo conto anche di averne incontrate di persone che mi hanno insegnato qualcosa, sia volendo che non volendo, sia uomini che donne, sia relazioni che proprio incontri con persone eccezionali. Quindi, come riconoscere un maestro? Forse dipende un po' da noi, da come ci rapportiamo con la nostra vita e da cosa abbiamo veramente bisogno di sviluppare per riconoscerne uno. Come si accoglie un maestro, per esempio? Perché, ecco, per concludere questo breve pensiero, non troppo breve, non è tanto mio modo di vedere il maestro come un qualcosa di eccezionale, ma come una situazione particolare in cui per avanzare al proprio percorso devi insegnare, e per iniziare o procedere al tuo percorso hai bisogno di trovare qualcuno che ti guidi, o qualcosa che ti guidi, anche un buon progetto può essere un'occasione di apprendimento. E la cosa bella è che non si smette mai, cioè le cose che puoi apprendere sono infinite, le cose che hai dentro di te sono illimitate, e quindi c'è sempre spazio per farne qualche cosa. Ecco, io per ora mi fermo qui, poi se mi viene in mente qualcos'altro te lo mando. Rigo-ni-a. Fin qui ho accennato all'importanza del maestro che, con fare maieutico, aiuta il discente a liberarsi spiritualmente per poi tacere, scomparire o addirittura annullarsi, perché la strada per l'autoapprendimento è il fine che ricerca il buon insegnante che custode di pratiche. Ma non c'è risveglio interiore senza risveglio nel fisico, nella materia, liberata dalle chimere del consumismo. Potrebbe sembrare un ossimoro, ma il maestro sa che quando il corpo è libero dalle catene delle costrizioni sociali, ricchezza, potere, cupidigia, ira, lo spirito può liberarsi. In questo solco il pensiero anarchico e libertario ha sempre gettato un ponte tra liberazione dalle pulsioni materialistiche e rivoluzione sociale. La società dello spettacolo contemporanea è la risultanza di millenni di lotta fra spirito e materia. Edonismo, arroganza, piacere esibito, sfruttamento di uomo e natura, la pornografia controllata, la tecnica a ogni costo, la guerra e il finto progresso sono bandiere materiali che gli anarchici rifiutano da più di un secolo. Il profitto che danneggia i tanti per lenire il piacere di pochi non è un valore propagandato da un buon maestro o una buona maestra. Il rispetto per le libertà individuali, la tolleranza, l'aiuto incondizionato agli sfruttati, il rispetto delle minoranze che non abboccano nel tranello della buona democrazia a maggioranza relativa, sono concetti annoverati da tutte le scuole libertarie. per citare De André, direi di essere un libertario, una persona estremamente tollerante. Spero perciò di essere considerato degno di poter appartenere a un consesso civile, perché a mio avviso la tolleranza è il primo sintomo della civiltà. Deriva dal libertarismo. Se poi l'anarchico l'hanno fatto diventare un termine negativo, addirittura orrendo, anarchico vuol dire senza governo, anarché, con questo alfa privativo fottutissimo, vuol dire semplicemente che uno pensa di essere abbastanza civile per riuscire a governarsi per conto proprio, attribuendo agli altri, con fiducia, visto che l'ha in se stesso, le sue stesse capacità. Mi pare così vada intesa la vera democrazia. Ritengo che l'anarchismo sia un perfezionamento della democrazia. Tutti gli anarchici seri la pensano così. Sono quelli che non sono anarchici che invece la fanno pensare diversamente. Ed è nel governarsi per conto proprio che un neofita diventa maestro di se stesso. Sono riuscito a condividere con voi tutti i pensieri sui maestri che ho raccolto, e wow, c'è una cosa che voglio dire in chiusura di puntata, perché io, vabbè, ho annunciato che oggi sarei andato in diretta perché perché in realtà dovevo organizzare l'agenda, perché ieri sera volevo passare il tempo con un amico e poi farmi una serata tranquilla a casa, e oggi pomeriggio ho un aereo per la Sicilia, ma volevo anche andare in onda. Questo lo dico come dire, in chiusura di Radio Antidoto, lasciando in sospeso l'argomento sui maestri, che ha aperto l'argomento sull'incontro, lo scambio, l'energia, la trasmissione, che sono tutti argomenti che in questo momento vivo con un po' di difficoltà, confesso. Questo lo dico perché ieri ho sentito nostalgia di una certa versione di me che avevo imparato a coltivare e che mi piaceva moltissimo e che avevo espresso tanto su Radio Antidoto, e mi sembrava il gesto migliore tornare su Radio Antidoto per poterla raccontare. E appunto la cosa che voglio dire dopo l'ennesima introduzione di 12 ore è che stamattina online ci sono Asco, c'è Fabio, c'è Giuna, c'è Bonelli, insomma è bello avervi attorno al fuoco, è bello avervi qui, non ci avrei sperato. Sono contento che aver dato un minimo di preavviso abbia prodotto risultati. Chissà chi altro mi sta ascoltando in questo momento. Nessuno sta battendo, come si dice, nessuno si sta facendo vivo al di fuori della comunità di Radio Antidoto, ma non importa. Io la terrei qui, nel senso, non starei a tirarla per le lunghe la questione dei maestri. Abbiamo parlato di tante cose molto belle, e mi piace anche molto questo ragionamento sull'anarchismo, mi piace molto anche l'idea che il maestro sia una missione personale, sia un desiderio di evoluzione, un desiderio di conoscenza di sé e di sviluppo di qualità umane, relazionali, prima di tutto. Quindi saper stare al mondo, saper stare con gli altri e saper raccontare il proprio modo di essere al mondo, sia come narratori, quindi raccontando la propria storia, ma sia come negli atti, nei gesti, come diceva Fabio inizio puntata col suo contributo: a volte cerchi un maestro perché ti piace come si comporta, non tanto per quello che ti sta insegnando. Quindi io vi lascio con un'ultima canzone che non c'entra niente con l'argomento, almeno non credo, non mi ci sono mai dedicato, non ci ho mai pensato, però è una canzone, è una di quelle canzoni che ho un po' come si dice, rivangato dal mio passato musicale, e ho avuto piacere di ascoltarla qualche tempo fa, ed è una canzone a cui sono molto affezionato, che mi piace molto, e con questo vi auguro buon fine settimana, buona Pasqua. È anche bello che questa puntata esca in questo momento di rinascita. Buona rinascita a tutti, risvegliamoci dai nostri sudari, riscopriamo noi stessi. Dopo di me ci sarà Asco, e anche lui farà un po' di radio con Radio Antidoto. Lui non ha mai smesso, lui, bisogna sempre dirlo, è veramente la nostra colonna, è veramente il nostro... anzi, più che colonna, perché penso che la colonna di Radio Antidoto in fondo sia Cristina. Lui sicuramente è la nostra testa d'ariete, non si ferma mai, è incredibile ed è veramente bravo. Un abbraccio a tutti, Grazie per esserci stati, una buona giornata, buon weekend, questa era Rigonia, 19 aprile 2025, musica. Rigonia.